24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:29 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, una nuova settimana di 24 mattino in diretta fino alle 9. Allora, di che parliamo oggi? Beh, abbiamo preso spunto e vogliamo prendere spunto nel nostro sondaggio dai casi delle inchieste che leggiamo sui giornali, le logge, le presunte logge, le P3 e poi le cricche di recente. Di fronte a tutti questi scandali, qualcuno ha lanciato una provocazione dicendo: se ci fossero più donne al potere, la corruzione sarebbe minore. Guarda caso, tutte le persone coinvolte anche in queste intercettazioni che parlano sono, per la maggior parte, quasi sempre, tutti uomini. È una tesi che qualcuno dice azzardata, è una tesi che qualcuno dice è giusta. Che ne pensate? Con più donne al potere ci sarebbe meno corruzione. Siete d'accordo? Ne parleremo poi approfonditamente alle 8:30. Voi dovete votare su radio24.it. Nell'on page ci trovate, bianco o nero. E ora, come di consueto, andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. Lunedì 26 luglio, l'apertura dei giornali è pressoché unanime, a parte il Sole 24 Ore che, come sapete, all'edizione del lunedì è dedicato al federalismo, al sud rincari per le tasse, rischi aumenti per compensare il taglio dei trasferimenti. Vedremo poi di cosa si tratta, come vedremo ci sono altre notizie interessanti. Il lunedì, come sempre, il Sole 24 Ore dà uno spaccato dell'Italia attraverso alcune interessanti approfondimenti. L'apertura quasi unanime è dedicata alla politica. Nel tormentone dell'estate io già sbuffo, perché insomma è una telenovela che non so quanto interessi agli italiani, sicuramente interessa molto, molto al mondo della politica e a quelli che seguono la politica. Quanti siano questi italiani, chi lo sa. In ogni caso, la telenovela dell'estate è sicuramente il balletto, la situazione difficile all'interno della maggioranza tra Finiani e Berlusconiani, tra Fini e Berlusconi. Vediamo le aperture dei giornali. Il Corriere della Sera sfida nel PDL, Fini sotto attacco. Per Repubblica, Berlusconi e Bossi, processo a Fini. Per La Stampa, il processo ai Finiani spacca il PDL. Per Il Giornale, La Russa, adesso Fini la pianti, c'è un'intervista alla Russa. Per Il Messaggero, Fini, l'assedio del PDL. Oh, che cosa è successo? Un piccolo riassunto degli ultimi giorni. La pietra dello scandalo che sta facendo nuovamente aumentare la temperatura nei rapporti tra Fini e Berlusconi è l'intervista che qualche giorno fa ha fatto il finiano Fabio Granata, che è anche vicepresidente della commissione antimafia e che nei giorni scorsi ha detto: ci sono pezzi dello Stato, del governo e della politica che fanno di tutto per ostacolare le indagini sulle stragi di Via D'Amelio e creare le condizioni di delegittimazione della magistratura. Questa accusa da parte di Granata, anche alcuni pezzi del governo, ha fatto ovviamente scatenare il putifero all'interno della maggioranza. Molti hanno detto: se sa i nomi li faccia. Secondo qualcuno si riferiva in particolare alla decisione della commissione presieduta dal sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano, che ha deciso di non dare la protezione al pentito Gaspare Spatuzza. Sta di fatto che appunto è successo su questo il putiferio. All'interno del PDL molti dicono: Granata non è più compatibile col partito, e hanno coinvolto i probiviri del partito, cioè smentisca oppure se ne occupino del suo caso i probiviri. Ora PDL, ora sotto accusa e Fini, prenda le distanze da Granata, questo a pagina 4 del Corriere della Sera. Ma c'è il Corriere della Sera, ci fa un editoriale anche in prima pagina, Pierluigi Battista, dissenso e probiviri. Stupisce che un partito che porta la libertà nel suo nome si esprima con tanta disinvoltura con il linguaggio dell'espulsione, della radiazione, dell'epurazione. Il partito che caccia via chi dissente è leninista, non liberale. E la non sopportazione della diversità bollata come minaccia e sabotaggio della giusta linea è un pezzo del XX secolo che si perpetua in quello nuovo. Così scrive Battista: quello di Granata è un delitto di lesa maestà, meglio, è un delitto d'opinione. Come tutte le opinioni, anche quella di Granata per definizione è controversa, discutibile, per di più non immune a parere di chi scrive da un certo morbo giustizialista che evidentemente in Italia allinea in tutti gli schieramenti, ma è un'opinione liberamente espressa e le opinioni liberamente espresse non dovrebbero ammettere il deferimento ai probi viri del partito, come invece si è imperiosamente intimato nei vertici del PDL. Nei panni di Berlusconi, leader carismatico indiscusso del PDL, ci si dovrebbe preoccupare più degli esercizi di dossieraggio slealmente praticati all'interno del partito per squalificare il rivale o il concorrente, il caso Campagna, che delle parole anche ingenerose manifestate da uno dei suoi dirigenti in odor di eresia. Così scrive Battista, insomma, critico a dire, sarà anche un'opinione opinabile, ma è pur sempre un'opinione, quella di Granata, e invece si è scatenato sull'onda di Granata appunto l'ennesimo braccio di ferro tra Berlusconi e Fini. Fini ovviamente dice terrò il punto perché chiaramente vogliono screditarmi prendendo questa scusa. I protagonisti invece sono Fabio Granata, che rilascia un'intervista a Guido Ruotolo sulla Stampa. Per la verità, dice Guido Ruotolo, prima si consulta a Roma, prima ci pensa un po', poi decide a rispondere alle domande, lo fa a pagina 4 e 5 della Stampa. E dice Granata: sono sorpreso, ciò che ho espresso sulle stragi del 92 e sui temi della legalità sono concetti e valori da sempre patrimonio della destra politica italiana, una destra che ha in Paolo Borsellino e in tutti quei servitori dello Stato uccisi perché facevano il loro dovere il punto di riferimento imprescindibile dell'agire politico. Non ho espresso alcuna tesi eversiva, ma la consapevolezza che su quella stagione bisogna ancora fare piena luce pretendendo verità e giustizia. Ecco, la vicenda è quella di Spatuzza, e proprio questo, il presidente della commissione che vaglia le posizioni dei dichiaranti, Mantovano, si è risentito per le sue dichiarazioni. Stimo Mantovano, risponde Granata, dico subito che secondo me ha commesso un errore di valutazione, tutto qui. Nulla a che vedere col sospetto di collusione con la mafia. Si può esprimere una critica? Lo dico perché sono consapevole che Mantovano è un magistrato, insieme al ministro Maroni ha ben condotto l'azione di contrasto alle mafie. Insomma, Granata dice: ho espresso queste critiche, ho espresso questi pareri molto, molto netti, se si vuole, opinabili, ma pur sempre critiche. Vedete invece come risponde Ignazio La Russa in un'intervista al Giornale. Fini, smetta di fare opposizione. Questo è il titolo. Un'intervista alla Russa parte proprio dal caso Granata. Ha detto che ci sono pezzi del governo che frenano il tentativo di far luce sulle stragi di mafia. Fuori i nomi. Voglio i nomi. Oppure, chiede Francesco Kramer, cioè l'intervistatore, oppure si scusi per aver pronunciato una frase senza né capo né coda. Ma le scuse, guardi, non arriveranno, mi sa, peggio per lui. Guardi che non ce l'ho con Granata sul piano umano, ce l'ho con lui sul piano politico. In verità Granata un nome l'ha fatto, Alfredo Mantovano. Assurdo, risponde La Russa, la negazione del programma di protezione è avvenuta nel più completo rispetto della legge. Abbia il coraggio di ripetere frasi da ricovero in ospedale. E poi La Russa parla della situazione Fini-Berlusconi, vedete, da lì parte la Granata per dire Fini-Berlusconi. Non capisco cosa sia il predellino 2, il partito c'è, ha gli strumenti per superare le criticità, il parlar chiaro. Fini, chiede Kramer, le ha mai detto di essere pentito di aver fondato il PDL e voler far gruppi autonomi? Certo che me l'ha detto, mezz'ora prima del summit burrascoso con Berlusconi e mezz'ora dopo. Io gli dissi chiaro e tondo che non l'avrei mai seguito in questa avventura, come del resto ha fatto la maggioranza degli ex AN. Lì c'è stata la svolta, ossia si è consumata la rottura con Berlusconi. Ora ci vuole un chiarimento una volta per tutte all'interno del PDL. Questo è il chiarimento una volta per tutte del PDL. L'ho sentita tipo 500 volte nell'ultimo mese. Ma d'altronde è così, i tempi della politica evidentemente sono un po' più lunghi dei tempi delle cose comuni, di tutti noi che ci alziamo e andiamo a lavorare. Sull'argomento si cimenta anche Giuliano Orbani, che è uno dei fondatori di Forza Italia. Il fondatore di Forza Italia è stato ministro e che è uno dei probiviri, peraltro. I probiviri sono 9, eh? Se volete, a pagina 6 il Corriere della Sera ve li fa vedere. Sono Franco Paolo Sisto, Guido Possa, Francesco Tofoni, Luigi Cella, Giuliano Urbani, per l'appunto, Marsilio Casale, Sergio Gallo, Maria Teresa Armosino, presidente Vittorio Mattiò. Cioè, sono quelli, i probiviri, che dovrebbero, nel caso, visto che sono stati coinvolti, Granata smentisca, oppure i probiviri, quelli che dovrebbero scegliere che fare di Granata, espellerlo o no dal partito. E Giuliano Urbani ricorda: guardate, io non posso parlare del caso Granata da probiviro, perché sono uno dei probiviri e non posso assolutamente parlare del caso. Però, da studioso, racconto un aneddoto. 2004, Consiglio dei Ministri. Parla Fini e a un certo punto io di soppiatto scrissi un bigliettino a Berlusconi, glielo allungai. La frase esatta non la ricordo, ma il succo di quello che scrissi a Berlusconi era questo: Silvio, guarda che queste sono le tesi della sinistra. 2004, racconta Urbani. Berlusconi legge il biglietto, mi guarda, sorride amaro e poi che fa? Che fa? Chiede Fabrizio Roncone, che intervista Urbani. Allunga il biglietto a Fini. Ma no! Ma sì, immagini la faccia di Fini, non mi parlò per un mese. Il problema è che Urbani dice, l'avevo detto, no? L'avevo capito, Fini è un uomo della Prima Repubblica, figlio di quella storia, espressione dei partiti. Berlusconi invece è tutto da un'altra parte, lui è l'uomo del fare, quello che ripete sempre di non voler partecipare al teatrino della politica. Prendiamo la legalità di cui si riempie la bocca Fini, è una legalità politicizzata, la medesima legalità ferma al 93, la stagione di Mani Pulite, una legalità farisaica. E insomma, c'è anche Urbani che conclude, guardi, vuole sapere come finirà? Sono entrambi personaggi orgogliosi e tra l'altro mi sembra che stiano venendo fuori da su negli ultimi tempi non solo le idee, ma anche le viscere dei due, lo ammetto. Un lieto fine mi sembra purtroppo impensabile. Questo è Giuliano Urbani, intervistato da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Vabbè, allora tralasciamo questa politica, questo tipo di politica, vedremo nei prossimi mesi come andrà a finire. C'è da segnalare riguardo alla politica alcuni aspetti interessanti. Il primo riguarda proprio, meglio, un paio riguardano proprio Berlusconi. Il primo è messo qua e là un po' sotto traccia da alcuni giornali. Il Corriere vi dedica un taglio basso di pagina 4, Repubblica per la Verità vi dedica una pagina, l'Unità vi dedica addirittura l'apertura. Cito il titolo dal Corriere: Residence di Villa Certosa, sì della Sardegna al Premier. Di cosa si tratta? Si tratta del fatto che la commissione della Sardegna, la commissione per il paesaggio della Sardegna, ha dato il suo sì agli ampliamenti richiesti dall'immobiliare riconducibile a Berlusconi per fare un nuovo caseggiato all'interno di Villa Certosa. Una villa da meno di 200 metri quadri, camere da letto, seminterrati, servizi, una sorta di piccolo residence per allargare la già mega villa da 2600 metri quadri di Villa Certosa. Le polemiche sono dei Verdi, innanzitutto, dicono faremo ricorso al TAR, perché ci sono le norme paesaggistiche che vietano la costruzione di un solo metro cubo sulle coste. Per la verità le norme sono ancora quelle dell'ex governatore Renato Soru, scrive il Corriere. La commissione, scrive, dice il suo presidente, lo scultore Pinuccio Sciola, la commissione si è limitata a esprimere un parere paesaggistico e sotto questo profilo il progetto è ineccepibile. Immerso in un grande parco, non ha impatto ambientale, come invece gran parte dei progetti che ci sono stati presentati e che abbiamo respinto o rinviato con richieste di chiarimenti. Insomma, Berlusconi si allarga la villa a Villa Certosa. Sì ai bungalow a Villa Certosa è polemica, questa è la paginata su Repubblica. Mentre addirittura, come detto, l'Unità vi apre, è l'apertura di prima pagina dell'Unità, c'è la foto di Villa Certosa, affari sardi. Villa La Certosa raddoppia, oddio raddoppia, in realtà il Corriere dice che da 2600 metri quadri c'è una nuova dependance da 200 metri quadri. E peraltro l'Unità dice: grazie al piano casa della regione di Cappellacci, la villa raddoppia, con anche il direttore Concita De Gregorio che dice: ecco, tutto in regola secondo il piano varato dal governatore Cappellacci. Mentre il Corriere ci fa sapere che il via libera è stato dato in base alle norme ancora risalenti alla vecchia legislatura, quella di Renato Soru. Questo è un giallo nel giallo, insomma, giusto a capire. Il fatto, la notizia è che certamente è stato dato un via libera all'ampliamento di parte della villa Certosa di Berlusconi in Sardegna. L'altro piccolo giallo, questo un po' minore ma che ha suscitato qualche polemica, trova sempre spazio su Repubblica. Riguarda Berlusconi e il presidente russo Medvedev, che era in visita a Milano nei giorni scorsi. Che cosa hanno fatto Berlusconi e Medvedev? Hanno fatto una cosa vietata a tutti i comuni mortali, vale a dire si sono fatti immortalare, e c'è su Repubblica la foto davanti al cenacolo di Leonardo da Vinci. Perché? Perché è vietato, perché non si possono scattare foto per i comuni mortali. La fotografia scattata venerdì durante la visita al Museo di Santa Maria delle Grazie a Milano, che ha fatto il giro del mondo, ha sollevato polemiche, perché per turisti e cittadini comuni fare fotografie all'interno della sala che custodisce l'ultima cena è rigorosamente vietato, perché col flash si rischia altrimenti di rovinare nel tempo il prezioso lavoro di Leonardo da Vinci. Ora si giustifica così il sovrintendente ai beni architettonici di Milano, Alberto Artioli, che era presente. Dice: io sono l'unico che posso dare l'autorizzazione, me l'hanno chiesto, ho detto non c'erano problemi, viene data l'autorizzazione in via straordinaria soprattutto per motivi di ricerca o studio, in questo caso erano pochi scatti. Il presidente russo Medvedev aveva manifestato questo desiderio di avere una foto vicino al cenacolo vinciano. Ho detto di sì, e non vedo assolutamente quale sia la polemica. In primo piano ho visto Giulia sparire. Questa frase, purtroppo la frase che racconta un dramma di quello che è avvenuto un paio di giorni fa a Duisburg, la trovate un po' su tutti i giornali, è il racconto di Irina De Vincenzo, una studentessa di Grugliasco che era presente a questa Love Parade in Germania, dove purtroppo nella calca sono morti diversi ragazzi. E questa Irina De Vincenzo racconta gli ultimi attimi di vita dell'amica Giulia Minola, 21 anni, morta nella calca appunto a Duisburg, e che alla stampa, a Paolo Colonnello e Francesco Moscatelli a pagina 3, ma anche al Corriere della Sera, Giusy Fasano racconta proprio gli ultimi attimi di vita dell'amica Giulia. Eravamo non so nemmeno io quando l'ho persa di vista, racconta per esempio alla stampa Irina. È successo tutto in un minuto, c'era un inferno. È stato un momento di panico collettivo, non si poteva andare avanti né indietro. La situazione è degenerata in quel tunnel, quando io e Giulia eravamo tra il secondo e il terzo tunnel. C'erano delle scale che salivano e servivano da sfogo, ma la polizia le ha chiuse. Di sicuro questa tragedia poteva essere evitata, dirottando la gente verso il palco, che era vuoto. Ecco, le polemiche sono proprio queste, le polemiche nei confronti degli organizzatori, le polemiche nei confronti della polizia in Germania. Angela Merkel dice ora pagheranno i responsabili. La follia, basta vedere le immagini di avere voluto convogliare circa 1,5 milioni di ragazzi che sono andati a questa festa attraverso un unico tunnel. Chi ha visto il giorno dopo, purtroppo, le immagini di come era organizzata, insomma, l'afflusso delle persone a questa Love Parade, ha detto: accidenti, non poteva che finire in una tragedia del genere, perché convogliare 1,5 milioni di persone per un'unica via di entrata con dei tunnel, è chiaro che insomma doveva andare tutto veramente bene, di fortuna, perché non succedesse nulla. E infatti le polemiche ci sono. Parla per esempio al Messaggero dottor Motte. Chi è dottor Motte? Mattias Rönig, all'anagrafe. Dottor Motte è il fondatore nel 1989 della prima Love Parade, un primo evento organizzato tra l'altro con un'artista italo-americana, Danielle De Picciotto, primo evento al quale parteciparono, pensate, 150 persone, 150. Poi è una manifestazione che si è protratta negli anni, si è rinnovata negli anni fino ad arrivare al 1,5 milioni di persone presenti appunto 2 giorni fa a Duisburg. Dottor Motte però dice: è uno scandalo, una strage annunciata, gli organizzatori a Duisburg non possono far finta di nulla e esprimersi stupiti per l'alto numero di partecipanti accorsi al raduno. Gli organizzatori hanno commesso un errore tremendo, eccolo qui, predisponendo un solo accesso all'area del raduno e circondando questa con recinti e transenne. Io sono fuoriuscito dalla società Love Parade già nel 2006 proprio per protesta contro la sua commercializzazione. L'evento era nato come manifestazione pubblica ed emancipatoria, mentre quello che conta ormai alla Love Parade sono solo i soldi, il profitto veloce a scapito della sicurezza. Tra l'altro c'è anche polemica in sé per tutti questi tipo di raduni, anche se Ernesto Assante e Gino Castaldo su Repubblica raccontano, secondo me nell'articolo più interessante, che cosa sia esattamente questa Love Parade, che cosa siano questo tipo di iniziative. Oltre Woodstock e oltre il muro, questo è il titolo dell'articolo che inizia in prima pagina e poi continua a pagina 13. L'impatto è stupefacente, scrivono Ernesto Assante e Gino Castaldo. Una primitiva festa pagana trasportata nel nuovo millennio. Basta entrare e si viene travolti da una strana sensazione di libertà. Musica forte, assordante, continua, ritmi che si mescolano, suoni elettronici, pulsazioni che entrano nello stomaco, si radicano nel cervello come scintille di futuro, fanno muovere il corpo e le gambe quasi al di là della volontà. Oltretutto, per una giornata occupa un'intera città come una liberatoria dissennata presa della Bastiglia, e poi i corpi, tanti, sudati, vicini, che respirano, si muovono all'unisono, braccia in aria, teste dondolanti. Anche se non si ama la techno, persino se non si fa parte generazionalmente di quel corpo collettivo che balla incessantemente, si viene sommersi da un'ondata di calore e di allegria, una frenesia alla quale è impossibile fuggire. Una festa in cui ci si perde, non si pensa, ci si abbandona, non c'è altro che il suono, non c'è nulla da vincere o perdere, non ci sono sogni o speranze, lacrime o rimpianti, è uno sballo anche senza droghe, è una fuga completa, assoluta da ogni forma di realtà, senza darsi prospettive, un gigantesco qui e ora, eccessivo in ogni sua forma, governato dal martellante primitivo ritmo cardiaco della techno. Questa è la Love Parade per Ernesto Assante e Gino Castaldo, ne ricostruiscono la storia, proprio nata da questo dottor Motte, fino alla tragedia di oggi, dicendo la Love Parade sono tutti protagonisti, non c'è un palco centrale, ma ci sono un'inarrestabile sfilata di grandi carri e esseri protagonisti con disc jockey, i ragazzi stessi in piena sfida creativa. Alla Love Parade, insomma, sono tutti protagonisti senza un centro, senza un idolo da ammirare, tutti alla pari per celebrare un pagano rito di condivisione, per perdersi e ritrovarsi insieme sull'onda di una musica che sembra non finire mai. Però certo, ci sono le polemiche, soprattutto gli organizzatori hanno detto ora non la faremo più questa manifestazione, però certo lo stesso organizzatore della prima manifestazione, dottor Motte, al Messaggero dice ora è cinica questa dichiarazione, non faremo più questo evento ora che è successa una tragedia che era assolutamente evitabile. Voglio andare velocemente alle altre segnalazioni, come detto il Sole 24 Ore che apre sul federalismo, io voglio citare però quello che più mi interessa, vale a dire il febbre delle slot machine. Sul Sole 24 Ore Marco Mobili in prima pagina racconta come, se pensiamo alle macchinette delle slot machine, pensate quanti miliardi in un anno vengono puntati dagli italiani, 30 miliardi di euro. Accidenti, pensate che al casinò di Sanremo vengono incassati con le slot machine solo 50 milioni di euro, per cui se noi pensiamo alle slot machine in Italia, gli incassi di tutte le slot machine, è come se ci fossero 600 casinò sparsi per l'Italia. 30 miliardi di euro in un anno, e tra l'altro c'è all'interno un'intervista, pagina 4, al direttore dell'amministrazione autonomia dei monopoli di Stato, dottor Ferrara, Raffaele Ferrara, che parla del gioco, parla dell'importanza di contrastare il gioco illegale, dell'importanza della presenza dello Stato, perché lo Stato deve esserci, perché il proibizionismo non ha mai dato grandi risultati e lo Stato, di fronte a un fenomeno così esteso del gioco, non può arretrare ma deve garantire correttezza e legalità. Un'intervista dunque al direttore dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara. Questo sul Sole 24 Ore, interessante focus insomma sul gioco la passione del gioco da parte degli italiani. Voglio andare alle rapide conclusioni. Sul Corriere della Sera c'è una pagina sul bagaglio a mano, tempo di viaggi ovviamente, il grande business del bagaglio a mano, ma attenzione perché da compagnia a compagnia aerea ci sono costi diversi, pesi diversi e anche regole diverse, ferre a volte da rispettare. Le ricorda pagina 21 il Corriere, un bel vademecum visto che bisogna viaggiare. C'è solo lo spazio conclusivo per dire che la Gazzetta dello Sport, che apre ovviamente sulla vittoria della Ferrari doppio rosso, racconta anche a pagina 12 e 13 in esclusiva come, secondo la Gazzetta, Mario Balotelli abbia già firmato per il Manchester City. Ormai l'accordo è fatto, l'ok definitivo è arrivato sabato scorso. Mario Balotelli guadagnerà 4 milioni a stagione. Firmeranno oggi, chiuderanno l'affare, 30 milioni al Manchester City, o meglio all'Inter, dal Manchester City all'Inter, più bonus legati a presenze e gol, 4 milioni di euro all'anno per Balotelli, che ora, dopo la firma, secondo la Gazzetta, lascerà il ritiro dell'Inter negli Stati Uniti. Mario se ne va e ci sono anche le foto esclusive della festa fatta dai suoi amici, la festa fatta sabato, così all'improvviso per insomma dirgli addio, arrivederci, buona avventura in Gran Bretagna. 7.55, votate il nostro sondaggio, che ne pensate? Con più donne al potere ci sarebbe meno corruzione. Siete d'accordo con questa tesi? Votate su radio24.it, ora il GR. Sono le 8 e 15 minuti, ben ritrovati, eccoci qua in diretta 24 mattino con la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno, lo sai che è l'ultima settimana insieme? Sì, esatto, infatti ti vedevo particolarmente raggiante stamattina. No, insieme qui, poi andiamo in vacanza insieme, no? Ma non è vero, già si è scatenato l'impossibile su questa nostra continuo giocherellare la mattina, le tortole eccetera. Le tortorelle, chissà se hanno trovato i ragazzi in studio quella cosa che ci servirebbe da mandare in onda. Ma chi lo sa? Adesso possiamo fare un'interrogazione. L'alpino Peter fa. Non l'abbiamo ancora trovata. Allora, intanto salutiamo. Io intanto comincio a parlare dell'argomento di oggi. Bene. Do il buongiorno agli ascoltatori di Soldi e Dintorni e soprattutto do il buongiorno ad Antonella Gorré, portavoce dell'Agenzia delle Entrate. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Perché questa mattina l'obiettivo di Soldi e Dintorni è di parlare dell'iniziativa, che in realtà è un progetto molto corposo che l'Agenzia delle Entrate con il Ministero dell'Istruzione porta avanti da ben 6 anni. Si chiama questo progetto Fisco a scuola, spiegare le tasse. Antonella, allora, 6 anni di vita, volevamo far ascoltare, adesso abbiamo qualche problema con il contributo, i due personaggi testimonial di questo progetto, ma fisco e scuola è qualcosa di piuttosto interessante, anche perché da molti anni e soprattutto negli ultimi mesi il dibattito si è molto concentrato su questo argomento. Si fa un gran parlare di educazione finanziaria nella scuola. Quello che interessa a voi è ovviamente il tema dell'educazione alla legalità fiscale. Tra l'altro ci sono questi due personaggi, questi due testimonial, e mi ha fatto molto sorridere il fatto che l'evasore fiscale sia interpretato da due personaggi che sono due, un topo e un serpente. Esatto, quindi parliamo un po' di questo progetto. Insomma, in cosa consiste e come il fisco entra nella scuola italiana? Sì, come ha detto lei, il progetto nasce nel 2004. Quest'anno, qualche giorno fa, abbiamo rinnovato per la terza volta il protocollo con il Ministero dell'Istruzione, che ci consente ai nostri funzionari dell'Agenzia delle Entrate di entrare nelle classi, sia delle scuole elementari, sia delle scuole medie, sia delle scuole superiori, soprattutto i licei classici. I nostri funzionari vanno in classe proprio per cercare di sensibilizzare i più giovani, che saranno i contribuenti di domani, sull'importanza di pagare le tasse, che significa contribuire al buon andamento della società, cioè vedere la parte positiva, perché ovviamente insomma siamo bombardati da messaggi per cui non fa piacere a tanti che il fisco metta tra virgolette le mani in tasca di ciascuno di noi. Ovviamente con quei soldi lo Stato ci garantisce dei servizi, ed è proprio quello che vogliamo far capire fin dai bambini, ossia il salvadanaio rappresenta l'erario dove tutti dobbiamo contribuire in base alle nostre possibilità, e gli si spiega anche questo, cioè che il ricco mette più soldini e il povero ne mette meno, chi non ha neanche possibilità di contribuire non emette, e nonostante non emetta, grazie al fatto che c'è il salvadanaio dello Stato, tutti possiamo usufruire degli ospedali, della sicurezza, possiamo andare a vedere i musei, una parte di un cartone animato, non so se l'ha visto, c'è anche il Colosseo, cioè si fa capire che possiamo andare a vedere il Colosseo e i monumenti perché c'è lo Stato che paga chi se ne occupa. Dottoressa Gorré, non riusciamo ovviamente, essendo in radio, a mostrare ai nostri ascoltatori chi sono Pagan Tax, però possiamo farlo ascoltare. Pag e Tax nel paese delle regole. Buongiorno signora Castora. Saprebbe dirci a cosa serve pagare le tasse? Certo, serve a fare tante cose utili per tutti. Serve per migliorare le scuole, gli ospedali e i servizi in generale. Le forze dell'ordine, la magistratura, i medici esistono grazie ai cittadini che, rispettando le regole fiscali, contribuiscono a finanziare tutti i servizi indispensabili alla nostra società. Quindi è come se si mettessero una parte dei risparmi in una cassa comune a disposizione di tutti. Wow! Una specie di salvadanaio gigante! Sì, no, mi stava distraendo come al solito Alessandro Milan, dottoressa Gorré. Come a scuola. Come a scuola, colpa, no, stavamo ascoltando, lui avendo anche dei bambini piccoli, stavamo ascoltando appunto questo contributo per capire anche quale target potesse raggiungere. Leggendo appunto anche le modalità con cui il progetto Fisco e Scuola si snoda, ho visto che comunque lo modulate anche in qualche maniera un po' diversamente, certo, a seconda delle regioni e delle scuole interessate. Lo moduliamo in base alla scuola, perché quello che abbiamo ascoltato è per i bambini più piccoli, quindi per i bambini delle scuole elementari. Ovviamente, non per i liceali. Animati, c'è il castoro che appunto è un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, il coniglio che è il medico, il serpente come diceva lei e il topo che sono gli evasori. Invece per i ragazzi più grandi ci sono due veri e propri attori che cercano di far passare anche insomma messaggi un po' più complessi. Mentre fino all'anno scorso tutte le nostre regioni, le direzioni regionali hanno organizzato dei propri progetti, quindi c'è chi ha fatto una recita con i bambini, chi una fiaba, chi un concorso letterario. Invece dall'anno scorso si è deciso di uniformare il messaggio con questi kit che sono stati prodotti a livello nazionale con Pag e Tax, e quindi tutti i nostri funzionari vanno ovunque in Italia, in tutte le scuole, a mostrare questo cartone animato o questo filmato appunto in base alla tipologia di scuola, e dopodiché rispondono alle domande. Per i bambini alla fine c'è anche un piccolo questionario per capire se sono passati i concetti basic. Devo dire che il ritorno è tanto, perché insomma i bambini sono entusiasti, anche le maestre sono contente. Era questo proprio anche l'aspetto al quale volevo arrivare in questo momento, perché noi nei mesi passati, anche nell'altra trasmissione Salvadanai, abbiamo a volte raccontato di altre iniziative analoghe, non si parla di fisco ma, come dicevo prima, di educazione finanziaria, quindi di educazione, non lo so, all'apertura di un conto corrente piuttosto che alla sottoscrizione di un prodotto di risparmio. E allora quando queste iniziative si portano nelle scuole, ho provocato anche come dire un po' gli autori di questi progetti, per esempio insieme all'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, o all'ANASF, l'Associazione dei Promotori Finanziari, chiedendo loro se i ragazzi, soprattutto i più grandi, come dire, prendono queste iniziative solo come un modo di non fare lezione e quindi in qualche maniera di prendersi, non dico una giornata di vacanza, ma di fare una cosa alternativa alla lezione tradizionale. Le chiedo appunto come i ragazzi e i bambini rispondono a questi stimoli. No, devo dire che noi rispondono bene perché il dibattito appunto che è successivo alla proiezione del filmato è sempre molto interessato. E poi devo dire che proprio perché l'iniziativa molto spesso in alcune regioni proprio si trasmette da sé, nel senso che chi l'ha fatto magari consiglia ai genitori, amici, di chiedere di poter partecipare al progetto, allora significa che i bambini, una volta che tornano a casa, ne parlano con i propri genitori, che a loro volta ne parlano con gli amici. Io devo dire che spesso noi non abbiamo abbastanza funzionari da mandare in giro nelle scuole, perché come puoi immaginare, oltre a quello dobbiamo anche fare altro. E quindi insomma è un buon ritorno. Ecco, se una scuola non avesse fino adesso aderito al progetto, sentendoci magari volesse farlo da quest'anno scolastico, da quello che si apre a settembre in avanti, cosa deve fare? Soprattutto avete delle novità per il nuovo anno scolastico che si va aprendo? Allora, sul nostro sito, che è www.agenziaentrate.it, sulla destra dell'home page c'è proprio una parte dedicata a entrate in classe. Una volta che si clicca lì dentro ci sono tutte le iniziative, sia passate sia insomma presenti, e ci sono le mail per contattarci, e quindi l'indirizzo per contattarci è entrate.inclasse@agenziaentrate.it, oppure c'è un elenco referenti regionali anche nazionali, che sarei io, c'è un PDF, si clicca dentro e escono i nomi e gli indirizzi di tutti, quindi se sono in Toscana ho il referente della Toscana. Benissimo. A cui posso scrivere per poter partecipare come scuola, quindi è molto facile mettersi in contatto con noi. Per settembre con le scuole continuiamo con i progetti, perché appunto i kit ancora devono raggiungere molte scuole, perché abbiamo fatto 1200 più o meno, abbiamo come obiettivo 1200 iniziative quest'anno, perché è talmente importante per l'agenzia il progetto che rientra proprio nella convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cioè non soltanto abbiamo gli obiettivi di riscosso, quindi oppure di servizi ai contribuenti, ma anche come obiettivi le scuole da visitare. Ne abbiamo 1200 l'anno, quindi per far capire come l'Agenzia delle Entrate, questo fa capire come l'Agenzia delle Entrate ritiene importante questo progetto. Dottoressa Gorrei, la ringrazio, sì, perché devo chiudere, rapidissima. Scusi, no, volevo soltanto dire che quest'anno stiamo organizzando con il Ministro dell'Istruzione una collaborazione anche a Roma con il Museo Explore, a Milano con il Museo della Scienza e della Tecnica, per fare una giornata lì, e quindi l'interesse di questi due importanti musei per i giovani hanno un sacco di successo, significa che l'iniziativa va bene. Grazie molte. Grazie. Peraltro, quello che volevo anche dire è che ovviamente sì, il fisco, come ha detto qualche anno fa, se non mi ricordo male, l'ex ministro dell'economia Padoa-Schioppa, le tasse sono una cosa bellissima. Alessandro, qui aiutami tu, se non mi sbaglio, sì, l'aveva sì, detto, sì, era lui. Scatenando, ecco, ovviamente se tutti pagassimo, tutti pagheremmo meno e tutti avremmo degli ottimi servizi. Qualche volta col fisco si entra anche in conflittualità, e questo è il tema del quale mi occupo oggi a Salvadanaio, perché c'è un articolato. Però Ti mando da Oscar 24... Giannino, che ti avrà ascoltato, cielo, ti farà sì, una reprimenda. Già tremo al pensiero di uscire da questa porta, però non è ancora arrivato, quindi posso, ecco, scappare infatti, rapidamente. Barricati dentro. Allora, grazie Deborah. Noi parliamo nel nostro sondaggio, parliamo di donne e potere e corruzione, perché leggendo le ultime indagini, le ultime intercettazioni su logge P3, Cricche, G8, eccetera, qualcuno ha fatto notare, ma avete notato che non ci sono mai donne coinvolte in queste intercettazioni? Qualcuno ha lanciato questa tesi dicendo: ci fossero più donne al potere, la corruzione sarebbe minore. Che ne pensate? Sono le 8:31, minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, nel nostro sondaggio di oggi parliamo di donne, di potere, di corruzione. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Perché qualcuno ha fatto notare, ne è nato anche un dibattito sui giornali nei giorni scorsi, ma com'è che in queste telefonate in cui si parla di consorterie varie, di logge P2, P3, P1, di quattro pensionati sfigati, poi questo si può capire, ma insomma nelle cricche, le inchieste, tutti quelli che parlano sono tutti uomini. Tutte le persone coinvolte a vario titolo, poi bisognerà capire che cosa c'è di penalmente rilevante. Qua non stiamo neanche a dire, a capire, o se vogliamo, sì, che cosa c'è di penalmente rilevante, no. Ma sta di fatto che il fatto è che sono tutti uomini. Qualcuno l'ha fatto notare e ha detto anche, forse, togliendo anche questo forse, ci fossero un po' più di donne al potere, magari la corruzione sarebbe minore. La pensa così per esempio Chicca Olivetti, almeno penso proprio di sì. Chicca Olivetti, buongiorno. Buongiorno. Fondatrice del movimento La Metà di Tutto. Perché ha lanciato questa provocazione o questa teoria, questa tesi che lei ovviamente condivide, che ha scatenato un dibattito a dire ci fossero un po' più di donne al potere, le donne sono meno, cosa avete, siete meno corruttibili, perché? Io credo che la donna è più etica, è più meritocratica. Ma a parte questo, siamo talmente lontani dal potere che insomma non saremo ancora avvezzi a tutti questi maneggi. Di conseguenza io credo che saremo più trasparenti, saremo molto distanti da questa mentalità. Lei dice siamo ancora lontani dal potere, però qualcuno qui vede un'obiezione a dire insomma è una questione solo statistica, solo, è vero, cioè scontate alcuni decenni di ritardo che però si stanno lentamente un po' parificando. Ma quando tanto. Lentamente ho detto parificando. Ma molto, siamo gli penultimi in Europa. Dice però quando sarete in un anno ipotetico pari agli uomini nelle posizioni di potere, ecco che sarete corruttibili anche voi. Vediamo, questo è un'affermazione cinica, possibile, ma arriviamo a questo potere? Lei dice questo è il problema, però perché l'idea di pensare che, come ha detto lei, la donna è più etica, la donna è meno corruttibile, perché? Perché la donna è meno abituata al potere. Io credo che gli uomini sono 2000 anni che hanno il potere, di conseguenza sanno ogni manomissione del potere, di come fare, mentre la donna è molto più lineare. Poi la donna ha un grande senso di praticità, ha un senso più chiaro della rex pubblica, del dovere, mi sembra più trasparente per la donna oggi. La donna oggi, che effetto le fa lei vedere tutte queste intercettazioni, leggere le intercettazioni, al di là di quello che dicono del fatto che siano tutti uomini, che spesso parlano anche in queste, non so, non tanto in questa inchiesta ultima sulla cosiddetta P3, ma magari quella sulle cricche, sul G8, parlano di donne, insomma si sa per quale motivo in genere, no? per organizzarsi qualche escort qua e là. Quello trovo che, se vogliamo, è un ulteriore consolidamento di certi rapporti tra uomini, ma insomma a me questo non è che sconvolga più di tanto, perché non voglio mettermi a parlare di escort. Allora, ma vogliamo parlare del fatto che le donne sicuramente non sono coinvolte, almeno. Tra l'altro si è scatenato questo dibattito dalla sua teoria esposta in un convegno. Sul giornale si sono un po' profuse, Ritan Armeni, Anna Maria Bernardini De Pace, nei giorni scorsi Maria Rita Parsi, insomma chi a difendere in generale questa teoria. Io abbiamo chiamato due commentatori, voglio salutarli, Filippo Facci di Libero. Filippo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Così come saluto Silvia Ballestra, scrittrice, buongiorno. Collabora anche con l'Unità. Buongiorno Ballestra. Eccoci, buongiorno. Facci, allora, la dichiarazione le donne sono più etiche, partirei da qui, anche perché insomma lei è l'unico uomo tra gli ospiti qui e quindi deve un attimo un po'... Come la prendiamo questa le donne sono più etiche di Chicca Olivetti? Ma paradossalmente a me piacerebbe poter dire che sono d'accordo e liquidare la questione, cioè se mettessimo il discorso su un piano, scusate i paroloni, antropologico, cioè differenze naturali, fisiologiche tra uomini e donne, cioè sarebbe bellissimo discuterne solo in questi termini, se gli uomini e le donne fossero appunto su uno stesso piano culturale. Il problema è che non è così, lo sappiamo tutti, ma più che non esserlo loro, prima di ancora di occuparsi di loro, insomma, e la società a non aver ancora equiparato i modelli, un modello che è ancora maschile, insomma, sarebbe bellissimo appunto fare un dibattito, ci arriveremo, non credo che sarà quando io sono ancora in vita, voglio dire, penso anche che arriverà un giorno in cui la donna spazzerà via l'uomo mediamente, perché è più competitiva nell'avere sia le caratteristiche che intese come difetti dell'uomo, sia i pregi, però insomma, ripeto, sto ciurlando del manico, questo discorso non serve a niente. Il dato concreto oggi, secondo me, è che le donne per lo più stiamo parlando di potere, eccetera, eccetera, o non contano nulla, o sono, o contano qualcosa perché si sono ossequiate a dei modelli maschili. Sia insomma, per modello maschile intendo insomma quella che è metaforizzata è comunque la legge del più forte, intendendo con questo un più forte fisicamente, anche psicologicamente, e, insomma, un modello che è ancora basato sulla guerra metaforizzata, sulla continuazione della guerra con altri mezzi, sulle tribù, i clan, le mafie, tutte cose per cui l'uomo, che è sempre, lo sappiamo tutti senza fare il ripeto dell'antropologia spiccia, è meno portato alle questioni terrene, per ragioni appunto che sappiamo fisiologiche, e vuol far la guerra e andare sulla luna, per ragioni appunto che fanno ancora che l'uomo sia diverso e vincente finché il modello è il suo. In conclusione, insomma, non si può prescindere da questo dato, per cui quanto, vabbè, ora non si può ripeterlo, è lungo, quanto ha scritto sul giornale Anna Maria Bernardini De Pace, che si è messa a fare in sostanza un censimento di tutte le ragioni che fanno sì che l'uomo, che la donna, sì, sia ancora indietro, secondo me il punto semplice è ancora quello lì, il punto semplice che il suffragio universale è arrivato tardi e che in Italia è arrivato più tardi che in qualsiasi altro paese civile del mondo. Sì, ma è solo una questione dunque di tempi, Chicca Olivetti dice di tempi molto, ma molto lentamente ci stiamo. È anche diverso, le donne e gli uomini sono diversi, secondo me le donne, ripeto, spazzeranno via l'uomo, ma lo faranno quando veramente in tempi futuri della società futuribili. Non sarà più basato proprio sulla supremazia dell'uomo, cioè manca un sacco di tempo. No, ma infatti io vorrei chiedere a Silvia Ballestra, mi ha detto Chicca Olivetti un'affermazione cinica, quella di pensare che quando, e non lo so, in un ipotetico futuro lontano, prossimo, le donne occuperanno le stanze del potere tanto quanto gli uomini, allora si può pensare che è una questione solo statistica, magari sarete più corruttibili voi di noi, non lo so, non c'è la controprova, però Chicca Olivetti dice proviamolo, insomma, finora avete comandato solo voi uomini, adesso proviamo a fare il contrario. Però perché è un'affermazione cinica? Perché non si potrebbe pensare che è solo così, una questione meramente di numeri, Ballestra, una questione statistica? Ma è una questione cinica, mi viene da dire, perché in quest'ottica allora non miglioreremo mai né gli uomini né le donne, cioè andiamo verso un peggioramento, cioè non è una cosa virtuosa, no? Se la donna viene promossa allora tutto, diciamo, migliorerà, no? La donna verrà promossa quando c'è questo vecchio detto un po' che circola, no? Quando un incapace, una donna incapace sarà al potere, allora sarà raggiunta la vera parità, no? La vera parità, secondo me, sarà raggiunta quando uomini e donne al potere si comporteranno bene e non saranno corruttibili negli uomini, nelle donne. Rispetto al coinvolgimento delle donne nei fatti appunto di corruzione che abbiamo sotto gli occhi degli ultimi mesi, però mi viene da dire che le donne non sono immuni, non è che le donne non ci siano, le donne ci sono in queste storie, non so, rispecchiano un po' l'organizzazione della nostra società, del nostro paese oggi, nel senso che in queste storie compaiono poi in qualche modo come gregarie, come figure di seconda fila, però non possiamo tacere delle escort, non possiamo tacere delle prestanome, non possiamo tacere delle mogli che magari si occupavano di ordinare le tende o chiamare l'idraulico per sostituire lo sciacquone, e che pure però ci sono in queste intercettazioni. Anche quello cos'è? È potere o è, come scriveva Bernardino Pace, sono donne aggregate al potere, donne che vanno dietro al potere, donne che sono assimilate al potere? Beh, sono donne che in qualche modo lavorano nell'ombra, ma non sono vittime di questo sistema, sono complici, per cui insomma riconosciamo anche questa responsabilità e questo ruolo. Certo, non è bello, è ovvio, saremmo tutti più contenti, no? Se ci fossero più donne, proviamo anche questa, diamo questa possibilità, questa opportunità alle donne, perché è giusto, perché è più democratico e perché probabilmente ci sono delle potenzialità, però non tacciamo anche delle cose che stanno succedendo, perché non possiamo tacere. Tra l'altro devo dire, la nostra domanda è questa, e nel nostro sondaggio per ora il 60% di chi risponde dice sì, se ci fossero più donne al potere ci sarebbe meno corruzione. Mi arriva anche una mail interessantissima che mi scrive Ivana e mi dice se secondo l'Economist, se Lehman Brothers si fosse chiamata Lehman Sisters, non sarebbe fallita perché le donne hanno meno propensione a rischio degli uomini. Insomma, queste teorie. Vediamo però qualche ascoltatore. 800 24 00 24, che cosa ne pensa? Voglio iniziare proprio da una donna, Lucia da Pisa. Buongiorno. Buongiorno. Dica, Lucia. Dunque, prima di tutto mi voglio riallacciare a quello che stava dicendo ora Balestra, che dice che ci sono delle donne che sono aggregate, che hanno dei poteri, eccetera. Non sono d'accordo, quelle per conto mio non sono donne, ma sono femmine usate dagli uomini. Io insisto, alcuni casi sono le mogli, le persone. Sì, vabbè, ma sono sempre usate solo come femmina e mai come donna, al limite come prestanome. Perciò è un'altra cosa rispetto alla donna etica di cui si diceva prima. Le donne sono più etiche, è vero, le donne hanno più spirito di sacrificio, hanno più spirito di rispetto verso gli altri. Purtroppo sono sempre state tenute in secondo ordine dagli uomini, che pensano solo al potere e alla prevaricazione sugli altri per essere importanti. La donna, a partire dal partorire, ha sempre sopportato in maniera più degli uomini, diciamo, il dolore e il rispetto verso. Però questo, Lucia, è il motivo magari per il quale siamo in questa situazione, cioè meno pochissime donne al potere rispetto agli uomini. Ma perché lei mi deve convincere? Perché se ci fossero più donne al potere ci sarebbe meno corruzione, ci sarebbe meno meno guerre, qualcuno dice anche meno guerre. Poi sì, quando è nato, perché dice? Fa parte dell'animo femminile essere più gentile. Ma perché, mi scusi Lucia, non so, come diceva Ritanna Armeni, quando Margaret Thatcher era capo in Gran Bretagna ha fatto la guerra anche lei, Condoleezza Rice, che è stata ministro negli Stati Uniti, è stata una che le guerre le ha sostenute. Sì, ma qualcuno lì ha detto che ci sono delle donne che possono avere degli attributi maschili. In questo senso sono d'accordo, però allora non parliamo di donna. Erano uomini nell'animo, lei dice. Come ci sono degli uomini che principalmente, diciamo, nel mondo dell'arte, della creatività, del cinema, che hanno degli attributi femminili, una sensibilità più forte femminile. Va bene, no, Lucia, grazie per questo suo intervento. Prima di andare al traffico, ancora vorrei tornare un attimo alla Chicca Olivetti. Qualcuno dice: e allora mettiamo le quote rosa? Per esempio, lei vorrebbe le quote rosa per garantire più potere alle donne, sia in politica che negli altri campi? Ma io detesto la parola quote rosa perché veramente è una parola fallimentare. Io credo che noi donne dobbiamo essere tante e prenderci i nostri diritti, perché quello di decidere le cose della Rex Pubblica è un nostro diritto, uguale, identico agli uomini. Noi dobbiamo farlo insieme agli uomini e dobbiamo, diciamo, rompere il monopolio maschile. È questo, ma senza domandare, prendercelo. La donna ha il difetto di essere disunita, e questo è il suo grande problema. Deve capire che andare da sole non si va da nessuna parte. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, ci stiamo chiedendo e vi stiamo chiedendo: secondo voi, con più donne al potere ci sarebbe meno corruzione? Siete d'accordo? Sentiamo Alberto da Pescara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo semplicemente portare alla vostra attenzione che nel corso dei miei vecchi studi in criminologia avevo constatato che c'era una naturale tendenza a delinquere di meno da parte delle donne, prima di tutto. E in seconda battuta, molti di questi delitti che commettevano erano concentrati su particolari settori. Uno classico è il taccheggio, che conosciamo giornalmente, ma soprattutto c'era una forte presenza di donne, ad esempio, nell'ambito delle organizzazioni terroristiche. Credo che tutti ricordiamo tantissime donne coinvolte nelle Brigate Rosse. Sì, o sì. Questo arrivare a dire? Arrivare a dire che essendoci una naturale tendenza a delinquere di meno, questo si riflette anche nei reati di corruzione. Quindi ritengo che se ci fossero più donne al potere ci sarebbe meno corruzione. Vabbè, ma i dati, guardi, Ritanna Armeni, Anna Maria Bernardini De Pace sul giornale ricordava anche come banalmente il numero dei detenuti, 3.000 sono donne, il numero dei detenuti uomini 65.000. Questo in Italia, anche questa statistica può far pensare. Però Filippo Facci, la questione, visto che quote rosa magari è un termine che non piace a Chicca Olivetti, ma quando io leggo che il comune di Favara Sara è stato sciolto perché la giunta era tutta di uomini, ricorso al TAR. Attenzione Facci, perché pende un ricorso al TAR anche per il Pirellone, cioè per la regione Lombardia. A settembre il TAR dovrà decidere, perché c'è un ricorso, perché ci sono credo un assessore donna e tutti gli altri uomini. Visto che di ricorsi al TAR ne abbiamo avuti pochi sulle questioni delle regionali. Questo è uno strumento, come definirlo, per arrivare a una parificazione del potere uomo-donna, in politica ovviamente? In politica come altrove, secondo me, ma non scopro niente, è sbagliato, nel senso che nel mondo, nello stesso mondo dove le donne sono laddove sono più emancipate, noi pensiamo agli Stati Uniti, voglio dire, non è che ci possano essere dubbi su questo, cioè le donne sono più emancipate di quelle europee, a parte quelle del nord Europa, e sono anche meno tutelate, ci sono meno quote, negli Stati Uniti ci sono meno, purtroppo, meno asili, meno congedi per maternità, meno assistenza statale per l'infanzia, meno tutele, meno quote di ogni tipo. E questo non lo dico per esaltare un modello che non mi esalta, appunto quello degli Stati Uniti, ma per dire che là il risultato di tutto questo è che le donne sono più emancipate che da noi, perché il punto secondo me non è adesso fare discorsi un pochino, chiedo scusa a tutti, un pochino da spiaggia sulle differenze tra uomini e donne, che non potremo mai, voglio dire, portare in porto appunto come discussione finché non c'è la pari condizioni per tutti. Il punto è se stiamo andando avanti o indietro da questo punto di vista, perché ripeto, secondo me le donne per lo più o non contano e nei dibattiti radiofonici, nelle intercettazioni purtroppo ci sono e fanno le massaggiatrici, oppure sono ossequiate sono ossequiate a modelli maschili. Il punto è, in Italia per esempio, stiamo andando avanti o indietro? Perché da una parte abbiamo un governo che ha messo molte donne dappertutto, dall'altra secondo me, se andiamo a vedere nel particolare, rappresenta un grandissimo passo indietro, perché il tipo di modello appunto che è stato scelto per le donne che fanno carriera in Italia in realtà è basato sul maschilismo straordinario. E quindi voglio dire è un progresso falso da questo punto di vista. Poi ripeto, un giorno che faremo, e mi interessa un sacco, la discussione sull'antropologia maschile e femminile, e se c'è un'antropologia maschile e femminile a motivare davvero il fatto che in galera ci siano più uomini o più donne. Sì, però questa cosa di un giorno, cioè qualcuno dice prendiamo, come dice Chicco Olivetti, prendiamo più potere adesso, questo per esempio è un metodo brutale, quello di far cadere le giunte, non è neanche il primo caso perché ci sono troppi uomini, però magari è un modo per, no? Facci, un modo brutale, ma magari per far capire il problema, no? Porlo, sbatterlo in faccia, come spesso si vuol dire. Funziona così. Non funziona, no, così. Finché sarà regalato sarà un potere subordinato, come lo è oggi, e in realtà è quello maschile. Non è Vediamo su questo. Ballestra, su questo è d'accordo con Facci? Cioè il fatto che, non so, per esempio questi ricorsi contro le giunte che hanno tutti uomini, è un potere che poi diventa regalato, quello delle cosiddette quote rosa, e quindi non va bene, non è conquistato. Ma no, perché non è regalato, è semplicemente un rispetto di leggi, regolamenti, ordinamenti che ovviamente ci sono, altrimenti non si interverrebbe con questi mezzi, no, per farli rispettare, sarebbe una cosa campata per aria. Evidentemente ci siamo dati delle regole che non sono state rispettate. Io sono a favore delle quote rosa come provvedimento temporaneo di emergenza in una situazione di emergenza come è quella in cui ci troviamo, e poi una volta, diciamo, sfondata appunto questo tappo, questo blocco che esiste in questa società così arretrata, le quote rose verranno abolite, perché a quel punto si sarà prodotto forzatamente, però si sarà prodotto un cambiamento, ma non è un regalo. Ci serve un qualcosa, serve una rottura, un qualcosa che dia in là poi a un processo che poi potrà arrivare nel tempo. Sì, se non si dà mai si inizierà, e sarà sempre poi e per un giorno ne parleremo quando sarà il momento. Sempre questo un giorno, futuribile. Alberto da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica Alberto. È una cosa molto molto veloce, volevo dire due cose. Quando le cose vanno male, come in questi momenti, ci si attacca anche alla differenza tra uomini e donne. Questo qua mi sembra una cosa... Ma perché che senso ci si attacca? perché la corruzione che c'è adesso, eccetera, eccetera, si dice cambiamo la giunta e poi mettiamo le donne, come dicevate giustamente voi, di regalare, e questo qua se lo devo meritare, non regalare. La seconda cosa invece per le quote rosa, ma le quote rosa, chiediamole anche per fare i camionisti, i muratori, gli impiantini, cose che non ho mai sentito al giorno d'oggi, perché le donne, mi permetto, un po' da maschilista, come avrà già capito il mio discorso, lo chiedono per andare in politica, per andare in certi posti dove sì, sono posti di potere, ecco. Però che abbia sentito una trasmissione o la signora che dica vogliamo le quote rosa per fare i muratori, donne muratori. Ah, interessante, Ballesta vuol rispondere al nostro Alberto da Modena, dice volete le quote rosa per i lavori di potere e quelli, non so, anche non fisicamente. Ma dobbiamo veramente rispondere ad argomenti così bassi? Vabbè, No, risponda, certo, come no, noi guardi qua se siamo un porto franco, benissimo. Tutti chiamano e tutti dicono la loro. Va bene, facciamo le quote azzurre per le casalinghe, va, mettiamo un po' di uomini a lavorare a casa, che sono lavori pesanti tanto quanto quelli del muratore e dell'imbianchino, e soprattutto i doppi lavori che fanno le donne, perché qui parlano le cifre, non è che parlo io che voglio, non ho nessun interesse poi personale a entrare in politica in posti di potere, diciamo, lo dico in maniera disinteressata, però siamo uno dei paesi dove le donne appunto fanno più lavori in casa e quindi lavorano fuori casa e poi quando tornano a casa hanno un supplemento di ore di lavoro in casa, perché invece gli uomini non fanno molto, non badano molto ai bambini, non badano ai nostri anziani e non si occupano delle pulizie. Facciamo le quote azzurre, chissà se il nostro ascoltatore un po' maschilista come si è autodefinito sarà d'accordo. Giuseppe da Brescia, tutti uomini, ho capito, tutti uomini che ci chiamano e passiamo. Giuseppe, sì, Giuseppe, buongiorno. Dica. Più che da Brescia dalla 4 in coda. Sa che notizia dalla 4 in coda. Volevo intanto premettere che secondo me una maggiore diversificazione in quello che sono le ideologie, le idee nel potere, quindi che siano maschili, femminili, diversificazione di razza, di provenienza, potrebbe, di credo religioso e quant'altro, potrebbe essere soltanto un fattore positivo. Premesso questo, volevo dire che sono d'accordo quando si dice che tutto questo, questa ideologia è soltanto un discorso da spiaggia, perché alla fine dove c'è stato potere, dove c'è potere anche femminile, vedi la Merkel, vedi Hillary Clinton, vedi Sarah Palin e quant'altro, comunque c'è stata alla pari degli uomini le stesse problematiche, lo stesso tipo di sospetto di corruzione. Lei dice è il potere in sé che corrompe, non è il fatto di essere uomo e donna. L'unica differenza che può in qualche modo volgere al favore del potere femminile, chiamiamolo in questa maniera, non vorrei distinguere quello che è il girl power di certi gruppi musicali. Volevo dire che fondamentalmente la donna ha un vantaggio rispetto all'uomo. L'uomo forse è questa componente più animalesca, più, come dire, più istintiva, che lo rende più vulnerabile a certi altri tipi di corruzione, vuoi quella sessuale, vuoi magari che la donna non ha. Forse la donna no, su questo sono perfettamente d'accordo, manca la controprova. Devo concludere ringraziando tutti. Forse Chicca Olivetti, lei ha lanciato questa provocazione fino a un certo punto, nel senso che lei ci crede molto, anche perché ha lanciato questo dibattito a dire facciamola questa controprova, cioè prendiamo più potere noi donne, in modo che no, poi dopo al limite veniamo smentite su questa cosa. Veniamo smentite, ma fin quando noi non entreremo a fare parte del mondo del potere, del mondo decisionale, insieme agli uomini, io dico, non voglio che siano chiaro. È un discorso femminista, perché nel mio gruppo ci sono tantissimi uomini che sostengono questo mio pensiero, saranno tutte parole al vento. Una cosa volevo dire a Facci: non è vero che la donna per sua natura si appoggia all'uomo più forte. E questo nella politica, nella carriera, anche l'uomo si appoggia sempre al capo più forte. Perciò anche questa è una Nella natura umana, dice uomo o donna. Io mi devo fermare qui, grazie a tutti, a Chicco Olivetti, Filippo Facci e Silvia Ballestra per essere stati con noi. Votate su Radio24.it, con più donne al potere ci sarebbe meno corruzione. Ora do la linea come di consueto a Oscar Giannino, con i saluti di Sara Spirafico in redazione, del nostro alpino Peter Bescape in regia. Domattina 7:30 siamo qui.